Charlotte, Emily e Anne Bronte furono tre sorelle scrittrici vissute nella prima metà dell'Ottocento in Inghilterra. Tutte e tre dovettero, come molte altre loro colleghe, firmare le loro opere con pseudonimi maschili per non incorrere in pregiudizi o ostracismi verso la presunta inferiorità delle opere femminili rispetto a quelle maschili, o addirittura nel rischio di non essere nemmeno prese in considerazione, come successe a Jane Austen. Anche le Bronte, come la Austen, erano figlie di un pastore anglicano. Per questo avevano ricevuto un'educazione e avevano potuto dedicarsi alla scrittura. A differenza della loro illustre collega, però, non descrissero la vita delle fanciulle della piccola aristocrazia, colte e intelligenti, ma senza speranza di emancipazione. Al contrario, la loro letteratura si occupò di descrivere piuttosto la situazione popolare, la povertà, il degrado in cui vivevano le classi meno fortunate nell'Inghilterra vittoriana. In questa lettura voglio proporvi Jane Eyre di Charlotte Bronte, meno conosciuto del famosissimo Cime Tempestose di sua sorella Emily, che racconta una tormentosa storia d'amore. Jane Eyre, titolo del romanzo e nome della protagonista, è invece una istruttiva finestra su una figura molto particolare di donna dell'epoca, la governante istitutrice, ovvero l'unica possibilità di indipendenza per una donna, a parte si intende essere la vedova di un uomo ricco. A quel tempo, quella della governante istitutrice è una figura professionale piuttosto consolidata. La fanciulla istruita, intelligente e senza mezzi, che non può sperare di migliorare la sua posizione sposando un uomo di ceto più alto, o che per scelta decide di non aggiogarsi alla schiavitù domestica e di rimanere libera, mantenendo se stessa appunto col mestiere di istitutrice di rampolli di buona famiglia in case private. L'espressione governante vittoriana nacque proprio in Inghilterra sotto la monarchia della regina Vittoria, e divenne addirittura sinonimo di un genere letterario, The Victorian Governess Novel, che identifica appunto un romanzo, una novella incentrata su questa figura di donna. Si veda anche la famosa Josephine March, delle Piccole Donne, di Louisa May Alcott, altra grande scrittrice americana, che ispirandosi a Charlotte Bronte, scrisse con pseudonimo maschile la quadrilogia delle Piccole Donne, sprezzantemente definita romanzo per fanciulle, ma che potrebbe tranquillamente essere proposta nelle scuole accanto ai romanzi di Dickens o di Balzac o di Tolstoi, con l'unica differenza che anziché raccontare storie di uomini, queste sono storie di donne che durante la guerra o la depressione soffrono fame, povertà, fatiche e attendono i mariti andati in guerra senza perdere la dignità e aiutandosi a vicenda. Non a caso la Alcott, autrice di Piccole Donne, era figlia di una suffragetta e fu educata dalla madre al sostegno e alla cooperazione tra donne. Tornando a Jane Eyre, è senza dubbio una delle grandi figure femminili della letteratura, al pari per esempio dell'Anna Karenina di Tolstoi o della Madame Bovary di Flaubert. Ma la scuola non la considera degna di essere inserita nei programmi di letteratura, eppure Jane è un'orfana che diventa adulta grazie alla sua forza, studiosa e colta, si mantiene con il suo lavoro e non svende la sua dignità, mentre Karenina e Bovary sono adultere che abbandonano i figli per inseguire la passione, dipendono dal denaro degli amanti per vivere e infine si suicidano. Ma sono opere scritte da uomini e questo nella nostra società continua ad essere un vantaggio. Ahimè, Jane Eyre ha una perfida matrigna che forgia il suo carattere. Purtroppo la Bronte è ancora vittima del sistema usato per millenni al fine di addestrare le giovani ad aspettarsi il male dalle altre donne e segue anche lei il copione da secoli imposto alla narrativa. Ma Jane, alla fine, perdona la matrigna. E non è il perdono buonista insegnatoci dalle religioni, bensì un completo, volontario e perfetto perdono purificante, cosciente e lucido, che libera con forza inimmaginabile la sua anima e il suo destino dalla devastante malattia dell'odio e del rancore. Jane è un cristallo che attraversa il dolore senza soccombere e senza contaminarsi, con fierezza e integrità. Così dice alla matrigna: amatemi o odiatemi come volete, avete il mio pieno e libero perdono, siate in pace. Esistono altri orfani famosi nella letteratura di quel periodo, si pensi a Oliver Twist di Dickens, per esempio, che al pari di Jane Eyre viene maltrattato durante l'infanzia, ma anziché riscattare la sua vita e la sua dignità col lavoro, come fa Jane, entra in una banda di malfattori. Dunque, perché Dickens è inserito nei programmi scolastici e la Bronte no? I romanzi delle donne continuano ad essere considerati roba da donne. Molte donne leggono Tolstoi e Flaubert, ma pochi uomini leggono l'Aoste nelle Bronte. Jane Eyre, come la sua autrice, sono donne che rendono onore al genere femminile ed è per questo che la scuola delle donne è lieta di proporne la lettura. Da Devana, buon ascolto.